se usi quel carretto che ti hai fatto tu per adattare le connessioni. Va veramente bene, ma fortissimo, bella chiara, forte. Un bel... E sai cosa dovrei fare qua, Claudio? Pulire un po' e mettergli forse un po' di CRC, pulire un po', a volte va tanto, mi si incanta, capito? Mi può capitare, ma non usare il CRC, è troppo oleoso per quelle parti che sono molto delicate, soprattutto di quei microfoni che non sono lamelle, sono a contatti di quelli sali e scendi, diciamo, di quei contatti lì. Non usa il CRC, è molto oleoso. Usa quello secco per i contatti elettronici, che ha delle impurità particolari e praticamente se ci ossido lo scioglie, però lo fa impolvere, mentre il CRC lo impasta, capito? E ti rimane sempre all'interno. Capito. E non funziona il coso della batteria, forse. Comunque ho messo a uno e il coso l'ho messo a uno, hai capito qual è il microfono? Non è molto alto, è a uno, perché se salto non lo so, vedi, aumenta di più la radio, vedi, così è più brutta così. Ci sta infatti troppo, va bene a uno, ma c'hai anche la tonalità tu però in quel microfono, e anche il compressore mi pare. €200, €226, gli Acer da 17 addirittura, 17 pollici, 3 giga, 226 euro, mi pare, così è, 226 euro, e io, allora non ce l'hai nuovo, il cazzo dicevo, ha fatto poco battaglia. Sì, abbiamo già fatto le prove, c'è roba. Sono che non controllo perché ne ha necessità di sapere il parere e di sapere. in sonda, e quindi ciò che stai, che percepisci o percepisci dalla tua radio vicina, e quindi c'è poca dispersione di voce, ma quando c'è la distanza è sempre diverso, è sempre diverso, c'è sempre una minima differenza che può essere importante o non importante, quindi o a favore o a sfavore. Questo è il mio parere, il mio punto di vista, poi ripeto, ognuno può giudicare, dire e fare ciò che le piace. Io giudico per me e quando chiedono il voto per me io vedo così, poi gli altri li possono dare come vogliono, non mi interessa. Beh, si conferma, è bene o male, è così, tante cose ci sono, è ovvio che da una parte arrivi in una certa maniera, dall'altra arrivi, è ovvio che poi ognuno esprime il suo desiderio, il suo modo di sentire la modulazione, e ovviamente o per la distanza o per una cosa da fare, comunque sono d'accordo con te quando si fanno i controlli, è ovvio che se uno ti chiede un controllo lo chiede perché si sente un po' in difficoltà, come è capitato anche a me, e durante le corti, che tu mi dicevi, guarda, perché che stai uscendo male? Stai uscendo male, e in effetti avevi anche ragione, non è che non avevo ragione, però piano piano, guardi, mi sono messo a posto un po' la radio, la microfonia e tutto quanto, e niente, ho visto che mi stai dicendo che riesco abbastanza bene, sono contento. Io sono amante della radio, l'hai ben capito? Ci sono differenze, soprattutto perché quando uno dà un controllo con una buonissima radio, come può essere un baracchino, io noto differenza, perché io, quando vieni qua lo vedi, io ho un baracchino, 40 canali che è lì, con un'altra antenna interna, e ascolto i cacchi degli altri canali, mi sono... L'ho messo sul 10, mentre parlava Luigi, che arriva benissimo qua, tra l'altro, nonostante abbia l'antenna interna, e noto una differenza non minima, ma abbastanza notevole tra la ricezione del baracchino e quella della calce, come io sto ricevendo. Quindi anche lì ci sono questi pro e contro, non che io debba dare i controlli meglio degli altri, ma ci può essere anche la mia ricezione, cioè la ricezione che ho io rispetto ad un altro che magari è più aperta, ecco. Perché c'è la colonna esterna della radio, perché una KF per mille problemi riesco a percepire proprio quella minima parte che lui dice, ah sì, ecco, non è il problema, e quindi gli si dà giusto, e gli si deve dare giusto, perché io ripeto, ribadisco, se devo dire che un microfono è una esce male, dico esce male, a chiunque sia. Io non chiedo mai controlli in radio perché non mi interessa, intanto so che questi microfoni sono tarati così e così devono uscire, ma chi usa microfoni così da tavolo come MB più 4, più 5, Savelta, o addirittura chi ha la radio modificata e ha necessità di fare delle prove, devi dargli in quella giusta maniera, perché se gli dai sbagliati poi magari può avere problemi anche nella registrazione dell'eco, delle cose che giustamente deve manovrare come Luigi, quindi bisogna darlo giusto. Beh, in effetti così, io vedete ho un Integra M500, se vuoi te lo faccio ascoltare, ma mi hanno detto che usciva una cagata, se vuoi io lo posso anche attaccare un attimino e te lo faccio ascoltare, poi mi dai il tuo parere, Claudio. Pure siamo qua per fare radio, non ci mancherebbe altro. La famiglia adesso mi dice la differenza tra uno e l'altro. Fanese, Gigi. L'ho messo a posto il microfono, là, dai, l'ho messo a posto e niente, lascio questa attaccata per il momento e l'altra pure. Tutte e due queste. Così c'ha... E niente, dai. Fine mi è costata quanto una radio professionale questa, mannaggia. So. E io vai Anto. Questo è il mio Tech M500. Come lo senti? Questo è il M500, quel microfono famoso. Ma da tavolo. Da tavolo, è molto cattedrale la modulazione, Anto. Pare dentro la Iesia. Allora, ciao, vedi un po' essere, com'è? Bassa. Tutto basso. Prova a parlare normale. Attento Claudio. Funziona normalissima. Normalissima con una un leggero riverbero. E ti posso dire che non è male, perlomeno io ti ascolto benissimo. All'inizio no. Forse era troppo alto, c'era troppo effetto cattedrale. Così posso dire che va bene, noi siamo vicini. Vediamo Luigi, prova a parlare con Luigi e come ti sente. Attento Luigi, come mi sento con questo microfono? Allora il segnale è Santiago di 7, ma la radio è bassissima da me qua. Rispetto all'altra è una bomba, il radio si è fortissimo ed è bella. Questa no, questa sinceramente in lontananza l'hai già provato, dai, non riuscivo a ascoltarti, ti ricordi? Da Campomera non ti ascoltavo più, invece con l'altro ti ascolto sino a Campera. Ti senta a Macomer li tengo io, sino al bivio di Macomer, Macomer Bossa, con l'altro microfono. Con questo no, si abbassa di radio, capito Claudio? Lo so, però se va solo in mare diventa un effetto cattedrale, sembra che stia trasmettendo dentro una chiesa, è lì il problema tu. Bisognerebbe fare delle prove con calma e vedere di darle una tonalità un pochino più eccessiva. Però a effetto cattedrale è molto brutta, cioè non si comprende nulla, capito? Magari se c'è qualche regolazione da fare lo porti qua, la attacchiamo alle mie radio. Tanto io ho i connettori, quelli connettori come Gianluigi, sono quelli che fanno prove così di microfoni, perciò c'ho l'adattatore. Lo proviamo su una radio e vediamo se c'ha dei trimmer da regolare, qualcosa da regolare, di portarlo a una tonalità un pochino più superiore, ma non come effetto cattedrale, come proprio tonalità di bassi, che sono quelli che mancano quel microfono tu. Kappa, no, questa è tutta l'altra minestra, dai. Confermi Claudio. Questo io quando devo vantare le cose l'ho sempre fatto con chiunque, quindi ti posso garantire che di tutte le radio, di tutti i baracchini che ci sono a Sassari, che sono oramai ben pochi, a livello diciamo microfonico così da tavolo eccetera, e tutti usano altri tipi di microfoni, questa per me potrebbe essere una delle migliori. Pagata. Beh, in effetti è così. Riprendi Gigino. Sai Claudio, Falchetto con quel microfono, quella radio è l'unico che riesce a parlare con Albino a colore. Con Albino a colore e con Finuccetto, che mi pare gli arriva un Santiago di 7-8 a Finuccetto addirittura lui. E lui ascolta benissimo a Finuccetto, da dove lui, lo sai Claudio. Ma forse dove sei tu pure? Io non li ho ancora sentiti allora, ma con Pinocchio ci sentivamo già ragionati a Pascoli, se andavo a Potenza. Immaginati da qua, che io sai benissimo sino a dove arrivavo prima, quindi non ho problemi. Io sono l'unico in VHF, in UHF che parla in diretta con tutta la zona del Campidano, cosa che qualcuno riconoscerebbe già la direttiva, io in verticale, perciò ti puoi immaginare in 11 metri, qua 27, che siamo a banda intera, cosa può succedere. Io accompagnavo tempo fa Michele, uno parlava in 27 sino a piazzare loro di Oristano, perciò puoi immaginarti. Non ho più sentito, cioè non ho mai sentito da quando sono qua io, a Pinuccetto e Albino. Quando magari parla Antonio, facciamo una prova per se arrivo anche io. Ma deve arrivare una schioppettata qua, perché ce l'ho proprio davanti io. Come si dice? Budusò. Figurati che Vittorio quando è in macchina, che dentro Pattara io parlo in diretta senza ponte, perciò in macchina. Perciò immaginati cosa può succedere con Pinuccetto da dentro casa Gioia. Positivo, invece vado a Sorso facendogli la parte di meno la casa del Sardo, no? Entrando a Sorso su quella tra lì, dalla zona dove c'è a Falchetto non lo sento, dalla parte opposta a Falchetto, guarda, tu lo devi sentire a Campera, al bivio di Marco Meri, come arriva dal punto di lui, devi sentire, hai tirito, io sono dentro il tirito da Caffa, ed arriva una bomboletta arriva. E tanto dicono tutti, ma questo pacchetto è in alto. E non parla benissimo Peruccetto senza problemi lui. È vero, quanto gli arrivi a Peruccetto tu? Santiago 8-9, dipende. 8-9. Vinto dalla posizione che è lui. E lui è giù nella valla, adesso ancora più in alto. No, mai, non ho più sentito io a Peruccetto da quando sono qua, io sono qua da... già 3 mesi quasi, non l'ho mai sentito ormai io in radio, ci sono poco, io ho detto così dopo cena con Antonio, Luca, tu, adesso stai entrando anche tu, ma durante il giorno non sono mai, se però quando sono a casa, adesso abbiamo il numero di telefono, Antonio, mi chiami quando stai parlando con Peruccetto, e vediamo, mi fai uno squillo, vediamo di fare qualche prova. Non va bene, no, e questo non perdonano. Non perdonano in nessun punto, eh. Anch'io ho un po' di difficoltà se disposti verso la parte di Castelsardo, perciò la collinetta di Filighendo che devo superare. Però siamo lì, siamo a una testa che riesco a passare, mentre Antonio, essendo più giù, c'ha tutta la parte che deve superare, compresa anche la mia, per tagliare in mezzo lì nella zona di Castelsardo, capito? Mentre io da qua, invece la dura marita la vado sul tetto, mentre Antonio no, capito il problema. Beh, Claudio, sì, che Gigino si è spostato. No, me l'ho tolto le cuffie, ed è diventata muta la razza. Mi ho rimesso le cuffie, me l'ho tolto un attimino le cuffie. Senza le cuffie non sento. Le cuffie che devo vedere io, perché non ho mai sentito. Però un attimino me le ho tolte, capite? Forse tu stai parlando e forse hai finito di parlare e ne hai rilanciate. Io le cuffie le ho tolte un attimino. Non c'è problema. Gaia c'è tu, Gaia c'è. Beh, qualche mattina sono a riposo, facciamo qualche prova tecnica di trasmissione, mi ricordo gli anni passati da qua. Non potevo rimanere su canale 5 perché gli altri camioni si bestemmiavano. Servito. Anche la vicinata. Davvero, capita a me e Emilio, può confermare anche Gigino qualche volta che ci sono questi di Cagliari, non dormi mai, tu non dormi mai, a te cosa ti appunti se io dormo o non dormo, non ti devo spiegazione a te, no. Aspetta qua, la persona a te devo sentire, avanza, allora mi caglio molto e poi vedi tu e dico. Oh, grazie, Marini. Ma ci fottite al parchetto, veramente, perché poi è entrato un'altra persona e mi ha detto di incavolato. Ah, è una botta, porca miseria, non mi ha fregato, Claudio. Ma fottite in pieno. Lui c'è bambino a fare quelle cose, è bambino. Io facevo la radio, avevo lavorato lui, eravamo lì e quando entravo la mattina presto viaggiavo la stessa a Perfugas con la mia battimobile, ma va via 334 battimodulati in macchina, però che ogni tanto scendevamo con Luigi, lui era già in zone alte, te la metti Gigi? È positivo, no, ma so che c'era stato qualcuno che aveva fatto qualche giorno prima, no? Io ho fatto uno scherzetto ma stavo facendo un parchetto, uno scherzetto, non sono scritto nelle gallerie. E poi sono entrato un'altra persona, hai capito? E allora ho continuato, un'altra persona e allora sei cavolato e mi fate da parchetto. Io dopo ho capito, ma porca miseria, quello là era nero, Claudio. Nidu, è diventato Nidu. E mi posso immaginare che Gigi lo è diventato il sabato. Alla spalla degli altri, no Gigi? Positivo, è da giorno. Allora lei è rimasto più Gianni, beh, io lavoravo con Michela per capirci. E mi ha detto, ma già una voce c'è lui la mattina presto, ha detto, vai a mare, lasciati Gianni, a voltui. Ha detto, mica lo so Luigi, sono quello sparato, sono vivo, in macchina, con questo ecco, qua ci fai la macchina con questo ecco. Aspetta, giovedì scorso, tacche, tutte e due a Onestano, io scendo al porto di Onestano, io ho scaricato per una cinema di edificio e lui ha scaricato, io ho fatto il murchio lì, insieme a Gianni, tutte e due ci siamo trovati a scendere, e poi ci prendiamo il caffè lì a Tramanta e poi siamo partiti. E allora io e lui, tu ti puoi immaginare, tu e Gianni conosciamo la relazione di Gianni, la relazione mia, beh, quindi c'erano altri due davanti e riuscivano a capire chi fosse Gianni e chi fosse io. E allora quando parlavano con me, parlava Gianni, io dicevo vai lui, parla, vai tu lui. E parlava Gianni al posto mio, e io dicevo, oh, non capivano neanche loro, non riuscivano più, poi c'è una punta, dicevo, io mi sembro sempre la stessa persona, non capivano più chi era uno e chi era l'altro. Se io mi scuglio. E poi capita così, quando poi ci sono due timbre che. Tu e Gianni avete la timbrica, diciamo, voltoio, non Gianni sia, che magari qualcuno capisce male. Tu a voltoio avete la modulazione è molto, molto simile e quindi stanno poi uno dietro l'altro e qualcuno ci casca, capito, o lui, bisogna stare molto attenti, ma io la modulazione a voltoio la conosco perfettamente. Perciò conosco molto bene la tua e non credo di poterci cadere, anche perché questo tipo di radio le modulazioni le smorza un po', quindi non. Col baracchino viene solo trovare a 48, a volte mi confondevo anch'io. Se sentivo a te lontananza sapevo che eri lontano, e a butto io la vicino, allora riuscivo a capire chi era uno e chi era l'altro. Ma se magari siete tutte e due uno dietro l'altro, bisogna stare molto attenti. Ci sono ti butti. E quindi il tuo ti ha fottito a te. Ci va fottito. Ma lui ci aveva fregato. E allora non avevo capito. Poi mi ha detto, Gigi, mi ha detto, mica lui io, mi ha detto, che non eri tu. Tutta un'altra lingua parlavo, che sembrava un'altra persona diversa. Ma che Claudio, ti ricordi? Noi gli facciamo c'è la donna, Claudio, ti ricordi, Claudio? Tu non hai detto, poi c'è che vero, mi ha venuto a Vemena. E mi ha fatto la voce alla donna, cazzo ci sono cascato giù via Pasqua, gli ho detto, cazzo, mi segna alle 9. E mi ha detto tutto, stavo arrivando la chiaglia di qui e là, con questa voce figaretta, gli ho detto, cazzo, mi era venendo la rettizia, ovvero. Anni, ti avendo più tu, la canale, c'è la monotorre, cazzo, poi si è offeso, quanto si è offeso. Ma non gli ho detto che ero io, gli ho detto dopo qualche mese, gli ho detto. E si è offeso proprio, no, stiamo dando una cosa detto, che lui non concentra tipo di gente così affeminata, lui non si è offeso proprio. E vabbè, può capitare che avendo così nel tranello, sai, una parola in più è. Uno si un po' offende, ma non succede niente, si mette tutto a posto. Ma a me proprio mi sta bene, ti aiuto, c'è una pura voce buona. E facciamo che, ora quanti anni hai? E mi ha detto, adesso mi ricordo, mi ha detto, c'è una trentina, e tu sei già camionista, 30 anni. Ma quello è il tuo lavoro? E lui, sì, il mio lavoro, mi piace, cazzo. Me lo vendi in abbiocco, Ci sarei mai arrivato, che eri tu, tutto mi sarei aspettato, ma che facevi anche tutti altri, cosa? E io avevo proprio amico loro, me lo mi hanno evitato. Allora gli ho fatto la voce, ma gli ho detto tutti i colori, gli ho detto proprio di tutti i colori. Ma poi si muove, come ha fatto già questa, perché c'è una voce grossa, non lo può fare anch'io, come ha fatto a fare questa voce così? Ma come ha fatto già una parchetta, io ti sono cacciuti. E non ci credevo neanche, ma io glielo feci me. Non è che perché deve andare a ritirarsi, io ho detto, ma ritirati, sta rompendo le scatole, sei sempre in mezzo come il prezzemolo o una cosa del genere. E non percepisco più, cari. E comincia a dirmi tutti i colori, ripariva, suga, era lo stesso, per carità, ogni macello. Con chi mi dimmi tu, non te capiotti? Come fa? Faccio la prima, non me, metta ciao. Sto appena partendo e tu vedi, già, ho preso il mio oggi ti tenevo, dai, ti tenevo sveglio viaggiare, tu lo sai, Falchetto, a moglie, è un altro, mi guarda sempre Falchetto, alle 5, e siamo, almeno se ci svaghiamo un po', dai, se no ti vedo lo sonno. Tanto più alto, le 5 preparo il baracchino, no, tu sei fuori. Io sempre e tu mi tieni a Gigi a Gianni Cipollo a tetto pacchetto e io sono un po' crudo a tetto pacchetto per volmi giù qua sogno e come stanno per metà nel giù da meno poi tra Gigi poi tra Orario poi tra ui chi più ne ha più la metà comunque e poi che non intendi mi dà pochette infatti non verbale con tradizione dice due caffè deve pagare il caffè a me e a Gigi che non lo mandano a fare l'appello a voce di ritardo che a voce di ritardo che a voce di ritardo che a voce di ritardo che a voce di ritardo che a voce hanno fatto l'appello lo mandano allora infatti lo verbale già come vecchi tempi dai come vecchi tempi no io mi piacerebbe scambiare le chiacchiere oggi mattina presto a svegliarmi, ma la stanchezza è talmente tanta che lui lascia verde, lasciami domani mattina, devo uscire alle 6, quindi mi alzerò sicuramente verso le 5 o 4, 5 e mezza, se vi sento già entro a salutarvi, ma proprio senza un appello. Ecco, vi saluto e scappo, perché così mi ho già fatto i controlli a Sassari del vascone di utenza e sono tranquillo, mi posso spostare verso la nulla, se no poi mi rimane tutto Sassari a controllare e non mi vogo piedi, e non mi tolgo piedi, però se la mattina ci siete già, quando me ne alzo, mi do un colpo di citofono per vedere com'è la situazione, malandrini. E c'è un periodo, ti ricordi, Gigi? Entrava a chiamare Marce, sulle tramitanza. Poi si tiro, Natalia entrava in Marecci, lo mandano. Andate lì, alle 4 e mezzo, attendo la radio, dai non che fai uscire da casa, andate in macchina a te, le tengo già. Quindi già Mario Massa ha detto a Falchetto già e io lo sonno le farà lo sonno io ti dico da comandare ma c'è un giro mi giro per ordine nuovamente c'è un tempio da caricare poi da mandare la Maddalena a caricare l'arsenale per Sintino c'è un giretto stesso domani bello e lungo sotto costa quindi rimane domani anziché 131 rimane sotto costa. Sì, va bene, io nella provincia di Ciglia c'è l'attacco dell'antenna, ma erano antenne VHF dal ponte che avevamo 10 anni fa, sono rimaste tutte le furgonette con questo morto dell'antenna. A proposito, ho già detto io di Antuca, e lasciami volutamente, quell'antenna che mi ha detto l'altra mattina, come vuoi se va bene l'attacco della furgonetta? Ah, già te l'apporto. Quando scendo domani al trabacco, ci vediamo domani magari pomeriggio e così te la provi. Quando sei la porta intanto tu esci prima di me. Quando sto salendo ti chiamo e ci vediamo, ci beviamo una birra fresca e gliela presentiamo, soprattutto c'è già il mozzo. Allora se quella lì quella che stavi dicendo tu, se quello lì lo stilo, perché noi ce l'avevamo in quelle macchine. Le antenne così come hai detto tu, però non sono sicuro se l'attacco è uguale, non sono sicuro, voglio vedere se è quella. Io anche se dovessi prendere un baracchino da qua a casa per dire, sai che io sono sempre alla 48, metterlo nella furgonetta, non ho il tempo per poter chiacchierare perché sto sali scendi e poi non mi va, non mi va. Abbiamo avuto una discussione da poco con un dirigente che dice che tutti la mattina sono stromati, che non arrivano al lavoro, quando le dai l'ordine di servizio perché partono da casa con queste radio a tutto volume, la musica, le mattaneggiano del video. detto, ma secondo me che ci viene avanti? A me la musica mi sveglia la mattina, io come metto in moto, accendo la radio, una gattoncina, lì, certo non a mattanate le tre vedo, musica italiana, o metti un CD, una cosa. Beh, questa discussione si è portata alle lunghe e mi hanno costretto a far togliere tutte le radio dalle macchine, infatti neanche nella mia ce n'è. Per essere tranquillo l'ho tolta anche dalla mia. Quindi, nella macchina di servizio non ci sono radio che cantano. Parrocchio. No, e in camion già ci va, il camion è una cosa, in camion va bene perché ci facciamo compagnia viaggiando sino a Cagliari e siamo sempre una greffa la mattina e siamo ai parecchi e fa molto compagnia. Infatti questa qua è una radio che io ho fatto per il camion più che altro, la tengo a casa perché c'ho l'altra, la tengo di scorta, può succedere qualcosa all'altra e c'ho l'altra pronta, capito, in camion. E per tenermela di scorta per il camion questa, capito? Non è per tenerla a casa, va bene anche a casa, però è una radio di scorta questa, ecco, me la sono fatta di scorta proprio per il camion. No, no, io volendo senza c'è il mostro dell'antenna, posso tranquillamente mettere anche un'antenna che ho io, no? Quella 27, perché ho quella corta, quella adattatore, che uno ha, ci sono due adattatori, uno che ha vita sulla base magnetica sua e l'altro che c'è la rondellina per applicarla a quel motto che ho io, che praticamente fa l'antenna sia per la 27, per CB e per UHF, UHF. Il motto è universale, capito? Ma non la metto per principio, non mi interessa. Sono di radio, non sono, baracchini già ne ho entro l'armadio. E anche qua esposti ne ho. Non è un problema quello per i baracchini, ma non la metto perché tanto tempo per parlare non ne ho. Il tempo che esco da casa faccio il controllo qua alla vascone d'utenza di via Milano. Mi bocio in macchina, mi do la farà, prendiamo un caffè, mi do la bugiara, esco da Montoro, boh, baracchino spento perché poi sono sempre in zone dove non fa neanche l'accendere, sono sempre dentro gli impianti, quindi cosa lo metti a fare? Bello sarebbe se in giro come siete voi, allora, ma una volta che io entro a Tronco Reale, rimango un'ora, due ore lì, o che ci sono lavori o che devo controllare qualcosa, no, non fa. È sprecare proprio tutto, capito? Capo di non smetterò, vai Anto. Sì, me la prendo a casa di mio compare, al limite siccome devo bruciare un'antenna per la Opel, che è quella che c'era insieme al Citto la base, e allora ora compro, tanto questa era una fesseria, così stacco anche direttamente la base e niente, così c'è base e antenna. Adesso completamente quando sto comprando l'antenna tiro l'antenna, capito? Poi una volta che compro l'antenna della Opel nella piazza mio compare che non so dove mettere le mani, ti porta anche la vasetta, porta l'antenna sua e così si prova e ciccia, capito? Tu provvisoriamente la provi lì, se va bene, c'è un attacco semirotondo piatto, dovrebbe starci benissimo. Come quello che ho visto nella furgonetta da lavoro, uguale a quello l'attacco. Sì, è piatto, l'attacco, capito, sarà di 3 mm di spessore, non di più. Dovrebbe andare alla grande, comunque io dovrei te la porto e così la piatto e vedo un po'. Sì. Sì, ma dovrebbe essere quello l'attacco, dovrebbe essere quello lì. Perché lì c'erano delle antenne VHF, sì, VHF erano a stilo, invece quello che hai detto tu c'ha la spiraletta, quindi quella lì è VU, di pulizia dei carabinieri, che ci aveva un tempo là, nelle macchine vecchie. Già quella lì. Ottimo. Fammi sapere che attacco c'è questo della Opel. Che mi pare c'è qualcosa in garage io di quello lì. Magari chissà la filettatura di gomma, che è lunga, tipo quella che ho io nella macchina mia, nella Smart. Sarà un 30 cm, ma neanche. sta con l'attacco in gomma e ci attacchi ci fide lo stilo che sarà di 30 cm di più, capito? Una cazzata è una cazzata e da vedere. Ma lo vediamo assieme, perché ne ho io di 40 in garage di via Pascoli, lo controlliamo, lo siamo assieme. C'è qualcosa che avevo tolto, adesso mi ricordo, avevo cambiato la macchina di mia moglie e ancora di mia figlia, perché le avevano, non ricordo cosa è successo, non lo so, si era rotto il cavo forse, ma c'ho anche il cavo io di quelle antenne, dentro i cassetti qua, in un'altra roba, fammi vedere e poi ti dirò. Avanti lui, ti ho sentito, ma devi andare a caricare. No, non carico più niente, ho già caricato prima e non devo andare, non lo so, vedo un po' dai, se ne guardo un po' di TV, ma me ne vado tra le 5 anche domani mattina, che alle 7 mi vogliono a tempio, perché ci puoi andare questa motopompa, non so, della betoniera, ho detto che dovevamo fare, e me ne vado alle presto domani mattina. E niente, stamattina mi sono uscito presto lo stesso, alle 4 e un quarto mi sono alzato la mattina, capito? La settimana scorsa, tutta la settimana alle 4 e un quarto, e questa settimana stiamo iniziando bene lo stesso, dai. Sì, vabbè, l'importante è che si inizi poi. Problemi non ce ne so, vai a tu. Cappa, e se deve andare, Gigi, non c'è stato problemi, vai a caricare, pango 144, un po' tutto Gigi, e ce ne ascoltiamo domani mattina. Avanti, tra. E rilanciamo a Gigi, va Gigi. Capito, 144, ora sia comunque. Buonanotte a tutti. Ciao Claudia, ciao Antone. Che vado e vedo un po' nel riposo. Insomma, non ne ho però, però mi vado un po' di TV e faccio via un po' di sonno, bevo una cosa fresca, cerco qualcosa di fresco in frigo e poi me ne vado a nanna. Ciao, ciao, buonanotte, a domani, ciao. Ciao lui, ciao. 144 è... non mi dai, devo capitare, capito? La metà, io lo voglio tutto in trio, non ne voglio la metà. È una sorta di smorzatura, per non dire che stai andando a letto, allora l'abbiamo sempre usato così. Va bene, capo, a domani allora, dai, buonanotte e buon tabacco per domani alle prossimine, poi ci aggiorniamo in settimana per vederci magari sabato mattina. Ho pigliato un caffè di Timpari e così mi ritiro anche quel materiale lui. Positivo, c'è stato un bip di pomponio sicuramente. Ciao a tutti, ho passato tutta la potenza, ho spento le luci e la radio è arrivata accesa del color blu, ma l'ha fatto tutto a blu. Buonanotte domani, avanti il doppio bip, triplo, quadruplo. Sì, ciao. 244, anche buonanotte, lui ci sentiamo al prossimo. Ciao Claudio, ben ascoltato, ciao anche a Antonio. Sì, non ho citato, anzi, ma tu hai un coso, ho sbagliato anche su BP, motopompa. Ciao Antonio, ben sentito. Cazzo, ma la te ne hai girato di te su BP, mi sei stato troppo veloce. Cava, riprendi, Claudio. Non so se fa così, Antonio. è come quando uno c'ha il garage, no? Tu immaginati, io quando ero qua da sempre, sono mancato 3 anni, sono sceso giù, ho lasciato la mansarda di qua piena di roba. In più ho continuato a smontare, fare, tira, molla, tutto quello che c'era giù via Pascoli, mi ho messo tutto in garage di via Pascoli che ce l'ho ancora. Capo, beh, quando poi sono tornato qua, non so più di pulire la roba, non so più dove mettere la roba, perché la mansarda era piena, il via Pascoli era pieno, ha giocato 1 più 1 fa 2, chiamato a Portobello, ho detto, ho un garage pieno di mobili, li servono? Dice sì. Allora venite, quantifichiamo quanto c'è, cosa c'è e portate via tutto. E si sono buttato tutto, mi pare che hanno venduto tutti i pesci, pesciletti, ceri, cadrei, bauli, daurini, insomma un pacco di roba, e ne avevo ricavato sulle 500-600 euro da lì. Poi qua in mansarda tutta roba da buttare, ma un montinaggio, ho messo tutto a posto e praticamente da tutta la mansarda che era piena di roba ho chiamato un camion, proprio un camion che qua non posso dire che cosa, che fanno proprio quel lavoro, ma allora noi a quella facciamo l'ultimo giro per fare questo servizio, se ci sei siamo in 4, anzi in 3, ti diamo un colpo di mano, tu prepara tutto, mi ho preparato tutta roba da mettere a posto e quella da buttare. Abbiamo fatto 3 viaggi ascensore, Antonio, ce lo conosci tu l'ascensore mio, che è grandissimo, abbiamo caricato tutto dentro, 3 viaggi e sta girando tutto. E si fa sempre così. Oggi ho imparato nulla, mondezza, allo garzonetto. E mi metto a posto, magari serve un domani, alla mondezza, perché poi ti si accumula tutto. In garage oppure come dice Antonello in campagna lo guardo di lavava tutto e alla fine se poi devi andare via a traslocare o fare qualcosa c'è la campagna o garage viene la mondezza. Sì c'è cosa per i viaggi con la campagna che altro, la verità è così. Adesso guarda, ieri mi ho un coso di sollievo, almeno ci ho portato un ferro, ma se non per ferro c'era di tutto, c'era, ci ho trovato addirittura quegli affari che usavano per le ruspe per la conoscenza, c'era presente per fare tipo cunea, io in cui ci ho trovato ti dico, mille pesano, mi pesa quasi 40 kg pesa, quanto sa che tu di cemento che usavano di cunea lì per un elefante, ma tu trovava, ci portava giù tutto il campagna, vedi? Poi alla fin fine vedi cosa succede, di tutto sovraccavallato è un problema, ma l'importante è che adesso hai buttato via un po' di roba e la campagna rimane un po' più pulita, K. Ah beh, quello sì, qualche giorno qua ti può trovare un amico che c'ha una specie di museo in casa sua, vieni con me e ti faccio vedere ciò che c'è lì, guarda, c'è di tutto, ci trovi, di tutto, radi antiche, pezzi di serrature, cose di tutto, lui mette da parte, ma c'è tutta la casa piena, già tutti appesi, messi in ordine, ma io ti porto su e vedrai che ti metti la ventesa di quello che c'ha. Per portare via tutto qualche giorno ci vuole l'articolato lì, non un viaggio di camioncino, l'articolato ci vuole. Di tutto c'è, tutti i tipi di tubi, tutti i mesi, tutti i funi, c'è poca roba. Poi c'è anche parecchi animali, c'è maiali, cavalli, asinelli, di tutto va. Piccioni, c'è anche uccelli addirittura c'è. E ho una madre di queste cose. Ah, mi piacciono gli uccelli, e beh, no, non lo amo. Se lo vuoi per mangiarlo, per farti chiappettare. Fai ciucucciù. Ah, per fare ciucucciù, e allora ci vuole quello del nero. Ciucucciù. Si giù, sempre in mezzo alle vie, no? Il gatto c'è un asino ogni volta che lo trovo sempre nella fracca il gatto, non ce ne invece lo prendo a calci in tutte le maniere, ne faccio cazzo, l'altro giorno gli ho messo la macchina vicino alle orecchie e cazzo, ho cominciato a suonare, manco bello bello, e sono recido, ma va un cazzo di pila al cazzo, sei gambe già. Io una volta, mi tipo nell'84, nell'85, ho lavorato alla veterinaria, c'era un cappotto, c'era. Beh, questo c'aveva la mania di tirare la sigaretta in piena, pigliava, se la girava, accesa, se la girava, se la mangiava. Un cappotto? Il cappotto, c'era la mania di venire incontro e di attirare la tombata, e la tutta un giorno sono andato a lavorare, mi sono spaventato. Ho trovato questo, dice tranquillo che l'ho fatto al gioco, cazzo è così, lo gioco di mano, mi ha fatto in terra, la prima volta, la seconda volta dice, no, la batte si fatto in terra io. L'ho preso per le cose, gli ho segato con seghetto. Sembra una cosa allucinante mai vista, cazzo. Hai detto un disegno, gli ha tuffato, io ho seduto lì. Sto fumando la sigaretta, c'è il chioschettino, l'ho messo a calorifero. Senza Gambozzi. Lo squalo, lo squalo, lo squalo. Sì, tu. Sto squalo. Sto squalo gira. Sembra strano. E tornato l'ha preso una sussa umana, una mano la vita, c'era una razza. Era più grande del cofano della macchina. Ehi, sì, posso mangiare, già ci sono. Sta aspettando di dove. No, già sono ben nutrite già, attenzione. Ma scusa, io lì non si può pescare, sono ben nutriti i pesci. No, allora, come fa il movimento? Scendono a terra perché loro pensano c'era a mangiare, sono talmente tranquilli che scendono loro a cercare di mangiare. Quindi basta qualsiasi movimento, sai, quella razza rimane sotto la sabbia, no? Ma sai, lo gabbo, ha detto vicino, la squadra, la squadra. Era talmente grande che ci aveva la pinna che era grande quanto la squadra. Si è assurdato, mi ci dicevo di averlo, poi ci siamo iniziati, però era una squadra, una razza. No, no, quello fa paura, è grande, io credo che mannaggia. Ma no, non ti fa niente. No, non sono pericolosi, perlomeno i pescatori che stanno lì non sono pericolosi, cazzo, beh. Un esemplare del genere, cazzo, varia un furgoncino, troviamo apertura di mille, varia un coggio, che. Certo, io poi ho paura a vederle, ma no, proprio la razza non è pericolosa. C'è l'altra che c'è la pugilione, ma c'è la guerra che sono pericolose, cioè. Santa. Cappa. Mi sa di Gedronese, quella sì, quella lo so. Lo so perché era appunto un produttore, un pescatore, che aveva si era gonfiata la mano, sembrava una puntura di vespa, lo so. No, è molto bello, è bellissimo, sto scoprendo cose allucinanti anche questo. Oggi abbiamo fatto un salto giù a Calasavina perché c'è una condotta della direzione generale di Calarolivo, ci sono i cassi integrati. Insomma, era pieno, c'è quest'acqua allucinante, bellissima, poi c'è un parco non fatto sotto, è una cosa spettacolare, veramente molto bello, però se non hai mezzo non ci puoi arrivare. Adesso oggi hanno messo i pollicini dell'ATP, oggi hanno inaugurato le linee Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, e poi fanno tutte le tappe, si fermano lì a Rossaio, insomma dove sono le spiagge che possono andare, perché a Calasavina non si può scendere con quella macchina, scendono con i fuoristrada, però intanto c'è il servizio che ti porta, si deve fare il bagno, ma si paga 5 euro. Oggi l'hanno inaugurato, visto che c'era il capomovimento Gianni Trassoli che stava controllando le linee se erano giuste, e niente, e aveva bassa pure a lui, e non è che problema, che sono in macchina io, sempre a manetta, e vamo già alla playa. Già lo credo, ma un mattone è sparito, Pomponio? No, non sparisce Pomponio, sicuramente ha trovato qualche bottiglia di birra. Ah, cavolo. Quando sono posti così intoccati è bello perché la natura è proprio, diciamo, selvaggia, bella, come piace a me. Porca tanto lo vedo io, perché io sono stato al parco di Argento, ma non ha niente a che vedere con sì, la Ginara è una, il fiore all'occhiello per tutto quello che è stato quando era penitenziaria. Quindi è praticamente una cosa storica per tutto quello che insomma c'è stato lì dentro e che è successo, ma io non ci trovo niente di particolare. È sporca, le strade sono sporche, tutte cagate dai cavalli, dagli asini, ovunque vai ti cazzo di asini in mezzo alle balle. Non lo vedo così parco, io ho capito, perché il parco di Argento, le strade sono tutte pulite, eppure il bestiame c'è, ma cercano di non farlo scendere molto, molto, perché c'è più controllo, capito? C'è più controllo, non lo fanno scendere è molto male, invece no, questi cazzo stanno in mezzo alla strada, sono sempre i cagheni, maniere cagheni, i cinghiali poi stanno distruggendo tutto, anche la fauna non è bella come deve essere un parco. Secondo me c'è ancora molto da lavorare, non è una cosa che mi attira moltissimo, sì, oddio, ci sono delle belle calette, delle belle cose al naturale, spiace che intoccabili, dove nessuno ha mai fatto niente, però per quanto riguarda tutto l'insieme delle cose, forse perché ci sono sempre, sono già stufo di vedere le stesse cose, ma non ci trovo niente di particolare a tu. Ebbene, Fritz, se non c'è manutenzione, ovvio che poi rimane al passo bravo ed è anche brutto, perché tutte le cose che ci sono scendono lì e sporcano e fanno. Ebbene, ci vorrebbero dei recinti, ovvio, dove non poter far uscire queste bestie, per dire. Perché il parco è abbastanza grande, la signora è un risolto abbastanza grandetto, ma se lo curano è una cosa anche piacevole per i turisti, se, capito? È bello anche per quello, ma se non viene curato è inutile che vai lì alle cose della guardia a vedere le caccate del pallone, ma lasciamo quello. No, ma proprio c'è tanto da lavorare, ci vorrebbe un po' più di controllo. Ti posso dire che di gente ce n'è al servizio, perché c'è la guardia forestale adesso, qui ci sono arrivate altre camionette, altre cose, io li conosco tutti ormai, hanno riattivato la caserma dei carabinieri, quindi stanno viaggiando anche i carabinieri, sono i carabinieri, ti ripeto, guardia forestale, ancora c'è qualcuno della penitenziaria, ma che fa un altro tipo di servizio per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente, e c'è la Polizia Municipale addirittura del distaccamento, no, il posto dove ha fatto un distaccamento anche alla Ginara, dove come controlli così ce ne sono, però ci vorrebbe proprio per la tutela del parco un corpo che gestisce questi animali. Io vedo che i cavalli, non ci sono mai in mezzo alle balle, i cavalli sono tutti hanno fatto un lì a come cacchio si chiama quella zona dopo Calareale, non la vanno meno a mettere, comunque lì hanno fatto un maneggio dove ci sono le ragazze del parco con i ragazzi che curano i cavalli, li tengono lì, li portano, li fanno cavalcare, c'è anche il maneggio dove appunto puoi sellare il cavallo, fare un giro, eccetera, delle escursioni, quindi già quelli sono animali seguiti. L'asino è molto particolare, sono quelli bianchi che sono cazzo tutti rincoglioniti, tutti quelli grigi sono cattivi, non ti puoi avvicinare, quindi io un giorno ho aperto con un asino grigio, mi sono trovato in difficoltà. Ero giù al posto dei fornelli, cazzo mi sono guidato, vero almeno guru, cazzo non vado allo sportello della Borgonetta, cazzo c'era la finestra della porta, ho detto cazzo io mi cagava la macchina, ho fatto un colpo, ho fatto un calcio allo sportello, quindi sto facendo domani, ho fatto un calcio allo sportello, cazzo mi ha acconato tutto lo sportello. Si è assustato, è accacchiato, lo so, e mi deve stare attento proprio con gli altri, mi piacciono tonti di natura, poi non fa neanche avvicinarmi, poi infatti quelli che ci sono più cattivi rispetto agli altri. Cazzo, ma io tu cazzo c'ero davanti, mi crastava, non un calcio allo male, cazzo, mi faceva avere le stelle, ma un calcio forte, a sportello basso, mi ha acconato. Cazzo, gli ho detto la bagassa che ha fatto. E poi ho preso il coso della macchina, c'avevo un manico di mia maria di bara, o di bicco, ho giocato un colpo a culo, cazzo, ho giusto che faccio di qua, c'era ancora corrente. ci sono degli animali un po' così al pascolo bravo, e quindi giustamente dicevano, ma ragazzi, voi io mi sono una grande cagura a carriera, non è che devo chiedere il permesso a te, però se ci fosse un po' più di attenzione, no, dico io, caso lo recintano, perché le sale si possono anche recintare con delle barriere belline, delle cose come hanno fatto a Portamone e tutto il litorale, dalla rotonda sino al coso dell'ultimo pittine, hanno fatto tutte quelle barriere, quelle recinzioni in legno così, no, quelle staccionate basse, ecco, intanto non salto, perché non salto un cazzo, sono tutti rincoglioniti, pensano solo a mangiare la mattina, la sera, a cagare, quindi fai queste cose così, le tre sono anche più belline e loro rimangono all'interno, non scendono nella strada, perché stanno anche in mezzo alla strada, si incuricano, ma non uno, ne puoi andare anche 6, 7, 8, 10, tutti con i gatti, tutti in mezzo alle balle. Guarda, quello stavo dicendo, se si dovesse fare una struttura del genere, è bellino, più carino, più riservata anche la strada, compagnia bella. E certo, se tutto pascolo bravo così, ovvio che poi loro dove si trovano si aggrapparà, perché così, dopo il lago mi do, e lui si è fatto prendere il piso da terra. Se sto dicendo, è una cosa allucinante, ma poi arriva anche sì, una canale reale, c'è il palazzo reale, che è bellissimo, insomma, è il fiore all'occhiello quello della Genova, anche perché arrivano tutti lì, quindi... Anche nel prato verde, proprio rasato, ci sono i giardinieri che lo rasano, lo curano, cazzo, anche oggi è tutto cagato agli assi, ma porca puttana, cazzo, ma come non c'è nessuno che non li fa entrare queste cose, no, vengono lì, o li trovi con i cartelli, o vicino all'ingresso al cazzo del ristorante, ma manda zini, mira la roccia, gatto, dirali, tira la gola, alcuni tira il moglio, gatto. Purtroppo è così, l'animale non va nulla da là. Ok, sorry, mi sbaglio che io acquistiamo tutto. No, il cartello c'è l'orologio sopra, però sono con la luce blu, non l'avevo visto. Sono vicino qua, tanto io. Ci sono domani di cantare il buco, vero? Ascolta, tanto ci vediamo allora, dai, al solito posto, tanto non prendo sigarette. Ci prendiamo la caffeina, alle 7:10 sono lì. E poi scappo a fare il giro dalla nulla, tanto sto presto, mi faccio già sassare domani mattina, quindi ci vediamo lì. D'accordo, grazie come sempre, ciao, ma che Antonello se c'è, grazie Palido, Luca e tutti gli altri che sono all'ascolto. Buonanotte a tutti, Anto, ci vediamo domani, grazie di tutto, come sempre, compagnia, chiacchiere, ciucucù, ok? Buonanotte, come tutto, ci vediamo domani, ci vediamo la caffeina, poi domani pomeriggio ti porto la commissione e così la prove. D'accordo, Claudio? Si conferma, ci sentiamo.